tanto crepi tu e tua madre, capito? Capito che piombo di telefonata a casa tua stanotte? Non hai capito? Quella tua madre che è una bagassa, capito? Tanto lo puoi dire pure a tua madre, capito? Perché stanotte ti faccio crepare! Quella tua madre da fare, capito? Da stanotte ti piombo di telefonata a casa tua, hai capito? Ti faccio crepare a te, a quella bagassa, mamma tua! Ma io ti coglioni! Stanotte ti piombo di telefonata a casa tua, capito? Ti faccio togliere anche il baracchino! Ma questa notte mi diverto io con quella bagassa di tua madre. Pronto? Ma vuoi finire, che coglione? Ma insomma, non c'è niente da fare? Pronto, che porco. Tua madre, hai capito? È stanotte, ti piombo il telefonato, meglio che te lo stacchi il telefono, hai capito? Lo devi staccare! Telefonata a casa tua. Porco!